Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio. Decima traccia. No, rispose il burattino. Ci sono altre due parole, poi è finita. Dopo avermi comprato, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi. Ma poi, cedendo a un sentimento pietoso d'umanità, avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata. E chi è questa fata? È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio. E li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scapataggini e per i loro cattivi portamenti, meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi. Dicevo, dunque, che la buona fata, appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un ciuchino belle morto, cominciarono a mangiarmi e che bocconi che facevano! Non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi. Chi mi mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e chi la criniera, chi la pelle delle zampe, chi la pelliccia della schiena. E fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda. Da oggi in poi, disse il compratore inorridito, faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce. Mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciuco. Io la penso come voi. Del resto, dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi, arrivarono, com'è naturale, all'osso, o per meglio dire, arrivarono al legno, perché, come vedete, io sono fatto di legno durissimo. Ma dopo dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti. E nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono chi in qua, chi in là, senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed eccovi raccontato come qualmente voi, tirando sulla fune, avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto. Io mi rido della tua storia. Io so che ho speso 20 soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini. Sai cosa farò? Ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto. Rivendetemi pure, io sono contento, disse Pinocchio, ma nel dir così fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua. E nuotando allegramente e allontanandosi dalla spiaggia, gridava al povero compratore: addio, padrone, se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo, ricordatevi di me. E poi rideva e seguitava a nuotare e dopo un poco, rivoltandosi indietro, urlava più forte. Addio, padrone, se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto, ricordatevi di me. Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più, ossia, si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava all'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco. E su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa, che la lana della caprettina, invece di essere bianca o nera o pallata di due colori come quella delle altre capre, era invece turchina, ma d'un color turchino sfolgorante, che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte. Raddoppiando di forza e di energia, si diede a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada, quando ecco uscir fuori dall'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino, con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'Attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire, ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta. «Affrettati, Pinocchio, beh, per carità!» gridava belando la bella caprettina. E Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, col petto, con le gambe e coi piedi. «Corri, Pinocchio, perché il mostro, beh, si avvicina!» E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppiava di lena nella corsa. «Bada, Pinocchio, il mostro ti raggiunge! Eccolo, beh, eccolo! Affrettati, per carità, o sei perduto!» E Pinocchio, a nuotar più lesto che mai, e via, e via, e via, come andrebbe una palla di fucile, e già era presso allo scoglio, e già la caprettina, spenzolandosi tutta sul mare, gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarlo a uscire dall'acqua. Ma oramai era tardi. Il mostro lo aveva raggiunto. Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina. E lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio, cascando giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così scaranzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento non sapeva raccapezzarsi, nemmeno lui, in che mondo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro. Perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana. Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio, ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino, allora cominciò a piangere e a strillare. E piangendo diceva: «Aiuto, aiuto, povero me, non c'è nessuno che venga a salvarmi!» «Chi vuoi che ti salvi, disgraziato?» disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata. «Chi è che parla così?» domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento. «Sono io! Sono un povero tonno, inghiottito dal pesce cane insieme con te. E tu, che pesce sei?» «Io non ho a che veder nulla coi pesci. Io sono un burattino.» «E allora, se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?» «Non sono io che mi sono fatto inghiottire. Egli è lui che mi ha inghiottito. E ora cosa dobbiamo fare qui, al buio?» «Rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due.» «Ma io Io non voglio essere digerito!» urlò Pinocchio, ricominciando a piangere. «Neppure io vorrei essere digerito. Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio. Scioccherie! La mia è un'opinione e le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate. Insomma, io voglio andarmene di qui. Io voglio fuggire.» «Fuggi se ci riesci. È molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti?» «Figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda.» Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di veder lontan lontano una specie di chiarore. «Che cosa sarà mai quel lumicino lontano, lontano?» disse Pinocchio. «Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà, come noi, il momento di essere digerito.» «Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire?» «Io te l'auguro di cuore, caro burattino.» «Addio, tonno.» «Addio, burattino, e buona fortuna.» «E dove ci rivedremo?» «E chi lo sa? È meglio non pensarci neppure.» Capitolo 35. Pinocchio ritrova in corpo al pesce cane. Che ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete. Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane, avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano, lontano. E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona, e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima. E più andava avanti, e più il chiarore si faceva rilucente e distinto, finché cammina, cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata, con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde, e seduto alla tavola un vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca. A quella vista il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande e così inaspettata che ci mancò un ette non cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose, e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia, e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare: «Oh babbo, oh bambino mio, finalmente vi ho ritrovato! Ora non vi lascio più, mai più, mai più! Dunque, oh, gli occhi mi dicono il vero», replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi. «Dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio? Sì, sì, sì, sì, sono io, proprio io! E voi mi avete già perdonato, non è vero? Oh, bambino mio, come siete buono! E pensare che io, invece... Oh, ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso! Figuratevi che il giorno che voi, povero bambino, col vendere la vostra casacca, mi compraste l'abbecedario per andare a scuola, io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi dette 5 monete d'oro perché le portassi a voi. Ma io trovai la volpe e il gatto che mi condussero all'osteria del Gambero Rosso, dove mangiarono come lupi. E partito solo di notte incontrai gli assassini che mi messero a corrermi dietro, e io via e loro dietro, e io via e loro sempre dietro, e io via, finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande. Dov'è che la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina, e i medici quando m'ebbero visitato dissero subito: se non è morto è segno che è sempre vivo. E allora mi scappò detto una bugia, e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera, motivo per cui andai con la volpe e il gatto a sotterrare le 4 monete d'oro. Che una l'avevo spesa all'osteria. E il pappagallo si messe a ridere, e viceversa di 2000 monete non trovai più nulla. La quale il giudice, quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri, di dove, col venir via, vidi un bel grappolo d'uva in un campo, che rimasi preso alla tagliola, e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio, che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare. E il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto, e così ritornai alla casa della bella bambina che era morta. E il colombo, vedendo che piangevo, mi disse: ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare, e io gli dissi: oh, se avessi l'ali anch'io. E lui mi disse: vuoi venire dal tuo babbo? E io gli dissi: magari, ma che mi ci porta? E lui mi disse: te ci porto io. E io gli dissi: e come? E lui mi disse: montami sulla groppa. E così abbiamo volato tutta la notte, e poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero: c'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare. E io da lontano vi riconobbi subito, perché me lo diceva il cuore, e vi feci segno di tornare alla spiaggia. Oh, ti riconobbi anch'io, disse Geppetto, e sarei volentieri tornato alla spiaggia, ma come fare? Il mare era grosso e un cavallone m'arrovesciò la barchetta. Allora un orribile pesce cane che era lì vicino, appena che m'ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me, e tirata fuori la lingua mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna. «E quant'è che siete chiuso qui dentro?» domandò Pinocchio. «E da quel giorno in poi saranno oramai 2 anni, oh, 2 anni, Pinocchio mio, che mi son parsi 2 secoli!» «E come avete fatto a campare? E dove avete trovata la candela? E i fiammiferi per accenderla? Chi ve li ha dati?» «E ora ti racconterò tutto. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si salvarono tutti, ma il bastimento colò a fondo, e il solito pesce cane, che quel giorno aveva un appetito eccellente, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento. Come? Lo inghiottì tutto in un boccone? Domandò Pinocchio meravigliato. Tutto in un boccone, e risputò solamente l'albero maestro perché gli era rimasto fra i denti come una lisca. Per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno, di biscotto, ossia di pane abbrustolito, di bottiglie di vino, d'uva secca, di cacio, di caffè, di zucchero, di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare 2 anni. Ma oggi sono agli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla. E questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta. E dopo? E dopo, caro mio, rimarremo tutte e due al buio. E allora, babbino mio, non c'è tempo da perdere, bisogna pensare subito a fuggire. A fuggire? E come? Scappando dalla bocca del pesce-cane e gettandosi a nuoto in mare. Tu parli bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare. E che importa? Voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io, che sono un buon nuotatore, vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia. Illusioni, ragazzo mio, replicò Geppetto, scotendo il capo e sorridendo malinconicamente. Ti pare egli possibile che un burattino alto appena 1 metro, come sei tu, possa aver tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle? Provate e vedrete. A ogni modo, se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme. E senza dir altro, Pinocchio prese in mano la candela e, andando avanti per far lume, disse al suo babbo: «Venite dietro a me e non abbiate paura». E così camminarono un bel pezzo. E traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce-cane. Ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora, bisogna sapere che il pesce-cane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore, era costretto a dormire a bocca aperta. Per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna. Questo è il vero momento di scappare, bisbigliò allora voltandosi al suo babbo. Il pesce cane dorme come un ghiro, il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno. Venite dunque, babbino, dietro a me e fra poco saremo salvi. Ecco, Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino e, arrivati in quell'immensa bocca, cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua, una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino. E già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare, quando, sul più bello, il pesce-cane starnutì. E nello starnutire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro. Nel grand'urto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio. E ora? Domandò Pinocchio facendosi serio. Ora, ragazzo mio, siamo belle perduti. Perché perduti? Datemi una mano, babbino, e badate di non sdrucciolare. Oh, ma dove mi conduci? Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me e non abbiate paura. Ciò detto, Pinocchio prese il suo babbo per la mano e, camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro. Poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i 3 filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo babbo: Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte, al resto ci penso io. Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo, Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio. La luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce-cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non lo avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. Capitolo 36esimo. Finalmente Pinocchio cessa d'essere un burattino e diventa un ragazzo.